Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. È arrivato Giro di vita. Racconta cambiamenti, fughe, rivoluzioni personali, ripartenze, downshifting. Donne, avvicinatevi. È arrivato Giro di vita. Se la vostra vita non vi piace, noi vi raccontiamo di chi ha cambiato vita. Se il vostro progetto di cambiamento fa fumo, noi togliamo il fumo dal vostro progetto di cambiamento. Donne! No vabbè dai, mi fermo, scusate. Volevo solo attirare l'attenzione del pubblico femminile, perché noi ogni giorno veniamo qui e raccontiamo storie di chi ha cambiato vita, di chi ha mollato tutto, di chi si è reinventato. E abbiamo in questi due mesi ascoltato anche molte storie di donne che hanno cambiato, che hanno viaggiato, che hanno rischiato. Però a me è rimasto il dubbio che comunque cambiare vita per le donne sia tuttora diverso, sia più difficile, più faticoso, che ancora nel 2010 si chieda alla donna di tenere i piedi di per terra, di scegliere presto una strada, di pensare alla famiglia, di ascoltare il tic-tac, tic-tac dell'orologio biologico. E allora io oggi vorrei sentire storie di donne che cambiano, storie di donne che rischiano, che ci stanno provando, che ci stanno pensando, oppure anche di donne che vorrebbero cambiare vita, ma dicono no, per noi donne è troppo difficile. Oggi vorremmo sentire le donne che stanno pensando di cambiare vita. Donne, telefonateci 800 24 00 24. Mamma, quando è che hai accettato la vita che fai? Oh, amore mio, sempre alla ricerca di qualcosa. Io ho bisogno di cose nuove. Da quando avevo 15 anni non ho fatto altro che trovare o piantare un fidanzato. Non mi sono mai presa due settimane di respiro per occuparmi di me stessa. Vuoi andare via per un anno? Ho sempre avuto una grande voglia di vivere e non ce l'ho più. Voglio andare in un posto dove meravigliarmi di qualcosa. Vabbè, facciamo un inizio serio, eh. Benvenuti, 26 agosto, giovedì, io sono Achille Corea, questo è Giro di Vita, Radio 24, il programma che vi racconta storie di chi ha cambiato tutto e si è inventato un nuovo inizio. Se volete parlare con noi 800 24 00 24, oppure potete commentarci su Facebook, alla nostra pagina che si chiama Giro di Vita. Questo che avete appena sentito è uno spezzone, una serie di spezzoni da un film che è in uscita a settembre con Julia Roberts, si chiama Mangia, prega e ama, tratto dal libro che ha anche un sottotitolo che è Una donna cerca la felicità, la storia appunto di questa donna che viaggia in Italia, in India, a Bali, per provare a cambiare la vita, per ritrovare se stessa. Ci ha colpito, l'abbiamo scelto con Fabrizio Intonti, perché già una storia di una donna che viaggia da sola è una storia degna di un film. Probabilmente per fare un film su un uomo che viaggia da solo avresti dovuto fare appunto quello che va nel deserto, quello che rischia di morire, che lotta da solo contro un esercito, perché probabilmente la donna che cambia, che viaggia, che prova a fare tutto da sola ancora fa notizia. Io insomma sono qui per ascoltare voi e per ascoltare i nostri ospiti, perché come voi sapete, se insomma conoscete un po' il programma, noi cominciamo sempre dalla storia di qualcuno che l'ha fatto, che ha cambiato la sua vita. Valeria, pronto? Sì, pronto, sono qui. Valeria, pronto? Sei qui a Parigi? A Parigi, sì, sono qui, ma a Parigi, al telefono. Da quanto tempo vivi a Parigi? Da un po' più di 3 anni adesso, sono stati 3 anni a febbraio. Da dove vieni, cosa fai e perché sei lì? Allora, vengo da Roma, mi sono laureata 3 anni e mezzo fa a Roma, e poi non lo so, dopo l'università con una mia amica non trovavamo molte possibilità a Roma, perché non ci convinceva tanto come ambiente di lavoro per architettura, io sono architetto, e quindi abbiamo avuto l'idea di provare a cambiare città così e di sceglierne un'altra quasi a caso, perché non avevamo poi contatti da nessuna parte, e quindi ci è venuta l'idea, perché no Parigi, un po' una scelta così su una lingua non troppo difficile, e così abbiamo fatto e siamo partite. In due in donne. Due. E com'è andata? Siamo arrivate appena laureate, proprio dopo un mese è andata, abbiamo cercato una casa per prima cosa, poi un corso di lingua e poi un lavoro. E eccoci qua, siamo ancora qui da più di 3 anni ormai e abbiamo tutte e due un bel lavoro, abbiamo trovato un po' le nostre strade entrambe qui. Senti, noi l'altro giorno abbiamo fatto una puntata sui nuovi, diciamo, immigranti, gli italiani che vanno all'estero per fare non più lavori, insomma i lavori che capitano, ma per fare i professionisti. Mi chiedo, c'era soprattutto questo, cioè il fatto che magari una giovane architetta non avrebbe avuto molti spazi, o c'era anche l'idea che un architetto, una donna architetto avrebbe avuto più spazio all'estero? Sì, sicuramente c'erano entrambe le cose. La riflessione è stata più come un architetto in generale che più come per una donna architetto, perché non mi sono mai messa veramente a cercare lavoro come architetto a Roma, in quanto proprio già di partenza non c'era un ambiente che apprezzavo professionalmente. Quindi non posso dire che l'ho fatto perché ero una donna architetto, ma l'abbiamo fatto veramente così, come due architetti, indipendentemente dal sesso. Senti, ma le reazioni quali sono state? Ma la mia famiglia all'inizio sì, mi ha detto che ero completamente pazza, che che era una scelta senza senso e che non avremmo trovato nulla e che saremmo tornate con la coda fra le gambe dopo 3 mesi. Vuoi salutare? Vuoi approfittare per salutare a casa? Sì, saluto tutti, saranno in vacanza chissà dove, ma insomma, tutti. Abbiamo internet, andiamo sul satellite, li raggiungiamo. Io vi seguo da Parigi, quindi. Senti, Valeria, io volevo anche sapere se poi effettivamente però c'era questa differenza tra Parigi e l'Italia, ad esempio la ricerca del lavoro, le risposte dell'ambiente professionale, erano quelle che vi aspettavate? Beh, guarda, sì, sinceramente, vedendo i miei amici che sono rimasti, la differenza è proprio enorme. Qui c'è apprezzano i giovani in maniera completamente diversa. Come neolaureato io ho trovato lavoro in 10 giorni in uno studio molto interessante dove mi hanno insegnato veramente tantissimo, e non so se a Roma avrei avuto le stesse possibilità. Ora ho cambiato lavoro, sono da 2 anni in un altro posto che è ancora più interessante per quello che è la mia strada, la mia specializzazione. Quindi penso proprio a tuttora di aver fatto la scelta giusta. E la vita personale te la sei ricostruita a Parigi? Sì, avevo un fidanzato quando sono partita che ora non c'è più, ma ce n'è un altro, e quindi che mi ha seguito in Francia perché è italiano e ha deciso per amore di venire a vivere qui a Parigi. Quindi anche la vita personale è perfetta, devo dire. E quindi anche gli uomini possono seguire le donne? Sì, per lui è stata forse più dura perché ha una mamma ancora che ha più controllo che la mia, ma sì, anche gli uomini. Forse per gli uomini è ancora più difficile separarsi da casa, da tutte le comodità della casa con mamma e tutto quello che comporta. Forse è ancora più difficile dire vado in Francia perché lì c'è il mio amore, insomma sembra una scelta un po' frufru, se vogliamo usare questo esatto, termine. Esatto, sicuramente. Senti, sicuramente. Siccome non ci piace fare le cartoline, insomma e non ci sono mai le cartoline poi in fondo nei cambi di vita, c'è qualcosa che però insomma è stato difficile o che comunque tuttora ti manca in questa tua scelta di trasferirti da solo o comunque con un'amica in Francia? Beh, sicuramente la famiglia, anche se può sembrare banale, sicuramente i miei fratelli, i miei genitori sono quelli che alla fine mi mancano di più, i miei amici più intimi che purtroppo ora vedo ovviamente molto raramente, giusto quando torno in Italia, quello sicuramente mi manca tanto e mi manca tuttora e mi fa pensare che magari un giorno, perché no, potrei rientrare quando, non lo so, a livello professionale magari sarò un po' più avanti. Sarebbe più facile secondo te rientrare nel mercato professionale con l'esperienza francese, con l'esperienza di chi appunto se n'è andata da subito? Guarda, mi credevo di sì, quando l'ho fatto mi dicevo che sicuramente sarebbe stato così. Adesso non sono più tanto sicura perché mi dico anche che quello che troverò in Italia non so se veramente mi piacerà. Quindi non lo so più se è così fattibile in realtà un rientro. Li fai i confronti con gli stipendi e l'inserimento professionale con quelli che facevano università con te e sono rimasti in Italia? Beh sì, è impossibile non fare confronti e la vita qui in Francia ha tutto, insomma, gli stipendi è tutto un altro livello. Ovviamente anche le spese sono tante, probabilmente a Roma costa un po' meno di Parigi, ma non c'è confronto, devo dire, veramente non c'è veramente un insomma, possibile confronto. Non sei pentita, non hai ancora l'accento francese, quello diciamo noi lo apprezziamo. No, per quindi, niente. E quindi diciamo chiudiamo chiedendoti insomma qualcosa relativamente alla, diciamo, a cosa ti sei portata dietro e a cosa lasci. La valigia e la zavorra. Allora, il nostro momento rituale della valigia e la zavorra. Tu cosa ti sei portata in questa tua nuova vita francese? Mi ero portata delle fotografie dei miei fratelli, della mia famiglia, del mio cane, soprattutto del mio gatto. E non hai il cane e il gatto? Potevano adattarsi magari alla Francia, no? In realtà preferisco che restino con mamma, è più facile. Li ho lasciati alla mamma. E cosa hai buttato? Il fidanzato. Sicuramente. Vabbè, però ne hai trovato un altro che si è trasferito. Esatto. Quindi è andato bene, è andata bene così. Grazie Valeria, grazie per averci raccontato il tuo giro di vita. Controindicazioni. Questo stile di vita è sconsigliato se ogni volta che lasciate vostro marito a casa da solo, lo chiamate 10 volte per sapere se è riuscito a prepararsi la cena. Pensate che inanellare una storia sbagliata dopo l'altra vi trasformerà in Carrie di Sex and the City. Ritenete che non sia il caso di allontanarvi troppo da vostro figlio? Potrebbe avere bisogno di voi. Ha solo 38 anni. Quando siete stanche e decidete di dare un taglio netto, finite per andare dal parrucchiere. Donne che cambiano, donne che vanno anche contro il luogo comune, il ruolo imposto. Imposto o non imposto, perché a me piacerebbe che voi mi telefonaste per dirmi: ma guarda, Corea, aggiornati, ormai non c'è più questa pressione sociale, non c'è più questa difficoltà, ormai è fatta, non c'è più differenza, non ci sono più problemi. Io sarei veramente, veramente contento. 800240024 è il numero per farlo. Sentiamo un'ascoltatrice. Silvana, pronto? Ah, buongiorno a te e buongiorno ai radioascoltatori. Silvana, hai cambiato vita? Beh, io a 35 anni ho cambiato vita, adesso ne ho 52 e ho deciso di andare da un lavoro comunale che avevo, sono andata a finire in montagna in un bellissimo rifugio, mi sono trascinata dietro i miei figli, ho cambiato aria e ho fatto bene perché adesso sono 20 anni e sono sempre nel mondo della ristorazione. Non è stato semplice, però mi ha salvato la vita. Tu riunisci un po' una serie di sogni, di quei buoni propositi che uno dice sempre: mi scappo dalla città, scappo dal posto fisso, mi apro un ristorante. Qual è stata la difficoltà però nel farlo e anche la reazione magari di chi all'epoca... Senza soldi ho ipotecato la piccola casa che avevo e poi partire con le figlie, andare non tantissimo lontano, 50 chilometri da dove vivevo, però neve, ghiaccio, freddo, insomma non è stato semplice. Scusami, eri da sola con i figli? Sì. Sì, è proprio stata una follia di piena coscienza. Ma è stata una reazione a qualcosa? Una reazione, sì, certo, a qualcosa che non andava bene. E nel grande dolore, questa vivere in montagna proprio mi ha dato ulteriore forza. Secondo te adesso sarebbe più facile, ad anni di distanza? Fare una cosa del genere? Sì. No. Sarebbe uguale, insomma non no, è cambiato. Sarebbe difficoltoso perché adesso ci vogliono i requisiti per poter aprire un'attività. Puoi aprire quello che vuoi, ma devi avere i requisiti, no? E allora appunto a capo torniamo come prima, insomma, ecco. Niente di nuovo sul fronte. Vabbè, ti ringrazio per questa storia, Silvana, e noi sentiamo invece un'altra ospite. E se lo facessi io? Io oggi insomma non posso dire insomma se lo facessi io, perché richiederebbe un cambio di vita un po' più lungo e complicato, però diciamo che riguarda come tutta la puntata le nostre ascoltatrici. Sentiamo Daniela De Rosa, che è una giornalista e che si è anche trasferita a Londra. Benvenuta. Buongiorno. Ecco. Daniela, diciamo lei è qui nella doppia veste di sia persona che ha cambiato vita, ma sia persona che sente, si occupa di donne che viaggiano, di donne che si muovono, grazie al sito permessola.com, che diciamo è anche un'associazione che promuove la cultura del viaggio femminile. È ancora diverso, è ancora difficile per le donne viaggiare e muoversi da sole? Per fortuna sta diventando sempre, però insomma diciamo che in Italia è ancora un po' lo è dal punto di vista mentalità. Abbiamo proviamo un attimo a sistemare, perché abbiamo forse un problema. Daniela, pronto? Sì, mi sentite? Sì, sì, adesso meglio, sì. Sì, dicevo, forse lo diventerà sempre meno, però è ancora un po' difficile per le donne, soprattutto in una mentalità italiana o perlomeno mediterranea. Quando io ho iniziato con Permessola 10 anni fa, lo era ancora di più, però non è che poi siano stati fatti tantissimi passi in 10 anni da questo punto di vista, secondo me. In 10 anni no, però spostandosi sì, cioè in Inghilterra si vede una differenza, ad esempio. Noi abbiamo sempre questo mito dell'estero, però magari è vero. Sì, sì, sì, assolutamente. In Inghilterra forse un sito di questo genere che spinge le donne a viaggiare da sole non sarebbe nemmeno necessario, loro già lo fanno da tanto tempo, anzi le prime esploratrici in giro per il mondo da sole erano proprio inglesi, e stiamo parlando dell'Ottocento. E invece però ci sono delle belle sorprese italiane, delle donne che hanno preso coraggio e cambiano e viaggiano e fanno quelle imprese che di solito si associano a viaggiatori solitari uomini? Beh, sì, sì, sicuramente ci sono. Io adesso con Permessola mi occupo di viaggi un po' a 360 gradi, non necessariamente di gente che vuole cambiare vita completamente, però succede che qualcuna scriva chiedendo consigli anche per scelte più radicali, e poi ci sono a volte delle persone veramente dotate di grande spirito che fanno viaggi avventurosi con lo zaino in spalla. Ed addirittura mi ricordo una che una volta aveva scritto chiedendo consigli perché voleva regalare alla mamma il viaggio della vita, voleva portarla in Polinesia e poi ha specificato che la mamma aveva 80 anni. Quindi insomma non unisce un po' il problema delle donne viaggiatrici con quello insomma delle viaggiatrici non più giovani. E, Daniela, passiamo un attimo al personale, perché io mi chiedo come mai lei si è trasferita a Londra? Dunque, io ho sentito la testimonianza dell'ascoltatrice precedente che scappava dalla città per andare a vivere, se ho capito bene, in montagna. Io ho fatto un po' il contrario, io sono scappata dalla provincia per tornare in città. Io sono una persona di indole metropolitana, sono nata e cresciuta a Milano, poi mi ero spostata per motivi familiari nella provincia italiana, che però mi stava molto stretta, e quando ho visto che i miei figli crescevano con la mentalità provinciale, eccetera, ho pensato che fosse il momento di portarli a fare un'immersione nella metropoli, di aprirgli un po' la mente, e quindi ho portato tutta la famiglia a Londra. Quindi un altro caso di famiglia spostata dalla forza motrice della donna e non dall'uomo. E ci sono stati 3 di maschi dietro di me, un marito e 2 figli. Vabbè, allora anche questi maschi, non è vero che sono così resistenti al cambiamento. E grazie Daniela De Rosa, ricordiamo il sito che è www.permessola.com, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire. Carla, pronto? Ciao. Carla, qual è il cambiamento di cui parliamo? Vabbè, io ho 36 anni e a 36 anni ho finalmente deciso di cambiare vita andando dalla Sardegna in Piemonte e mollando marito, gatti, casa, la mia Cagliari. Mollando temporaneamente? Sì, per il momento sì. E quindi per 6 mesi soltanto, poi si vedrà un po' più avanti, insomma. Ecco, questa è una cosa che però è dall'altro lato è normale, insomma. Ognuno poi parla delle sue cose. Mio padre andava in Germania e lasciava mia madre per mesi. È sempre stato normale che l'uomo lasciasse un po' la donna a casa per lavoro. C'è ancora difficoltà a percepire il contrario? Sì, assolutamente sì, soprattutto qua, e quindi ho avuto parecchie difficoltà sia con i parenti che con mio marito, che comunque tarda ancora ad accettare la mia scelta, insomma, anche perché non la concepisce, proprio per la mentalità comunque maschilista che è rimasta. Ma siamo al ritorno adesso da questa esperienza? No, ancora mancano 3 mesi, ma ancora non so se tornerò, nel senso che una volta che ho superato il fossato, quando si sta dall'altra parte il cambiamento è più facile, quindi qualora non dovessi trovare subito niente in Sardegna, penso che continuerò a cercare in Italia, o penso che rimarrò in Italia, per cui lì... Ma, cara, non convinci il marito a partire in 2? Sì, è un po' difficile perché lui ha il lavoro lì, quindi è un po' complicato. Io però dal mio punto di vista non posso assolutamente pensare di poter stare a casa oppure limitare comunque quelle che sono le mie scelte lavorative, per cui poi ci penseremo più in là. No, perché mi preoccupo, però poi ci, fateci sapere, voglio dire, perché non vorrei che poi la... ecco, bisogna sempre scegliere questa cosa, bisogna sempre avere una, insomma, sacrificare qualcosa. Questo è vero, noi ormai l'abbiamo imparato, se uno vuole cambiare vita qualcosa deve sacrificare, ma può essere che nel 2010 ancora bisogna scegliere tra la famiglia e l'emancipazione, insomma, non lo so, mi sembra difficile, anche che se temevo, insomma, telefonate di questo tipo. Che lavoro, posso sapere che lavoro fai tu e che lavoro fa tuo marito? Allora, io sono una consulente aziendale, per cui mi occupo di finanziamenti alle imprese. Mio marito è un quasi dirigente, insomma, in un'azienda di trasporti della città di Cagliari, per cui lui è fermato lì e non credo che si possa spostare. Quindi diciamo perdi tu nel caso, se la mettiamo sul chi è più avanti. Assolutamente sì. E vabbè, insomma, vabbè, forza e coraggio, Carla, non ci scoraggiamo. 800240024, io ringrazio Carla e vorrei sentire Anita, pronto? Pronto, buonasera. Anita, ha cambiato? Hai cambiato, io non passo. Hai cambiato, sì, dai. Ho cambiato tutto, sempre. Io allora intanto facciamo una cosa, io oggi l'ho già detto ieri, non voglio sottostare a questa dittatura del fatto che non si può chiedere l'età alle donne, perché sennò chissà che offesa si fa. Quanti anni hai? Perché, preferirei non dirlo, perché per il mio lavoro non è una buona cosa. All'estero non si fa mai, fra l'altro, è un'abitudine un po' italiana. Beh, ma perché per un uomo non è un problema, per una donna? Perché la donna è giudicata più dalla parte cronologica invece da quello che fa o da come si presenta, perché delle volte uno non dimostra l'età e non agisce secondo una cronologia, capisci? È tutto diverso. Sì. Ma cosa fai, Anita? Allora, io adesso... Adesso organizzo tutta una serie di gruppi culturali e filosofici in giro per l'Italia e per il mondo. Però ho iniziato a 12 anni quando stavo a Roma e ho deciso di cambiare la mia religione. E allora ho cambiato da protestante a cattolica. Poi a 16 anni ho deciso che volevo sposarmi e cambiare nazione, devo andare da un'altra parte, perché la mia nonna mi aveva detto che dovevo andare a studiare in Inghilterra per formarmi in maniera democratica. Allora ho sposato un inglese. Ho sposato un inglese a 16 anni, a 18 ho avuto un primo figlio, a 26 ne avevo 5. Ma ha cambiato vita continuamente, non hai cambiato una volta? Continuamente. E arrivava un momento in cui hai deciso di fermarti? Sì, per un periodo l'ho fatto, però fermandomi viaggiando, perché avevo questi 5 bambini e mi sono dedicata molto a loro. Ma quindi quando senti gli altri che dicono le donne è difficile cambiare, per te non è vero? No, assolutamente no, è una questione di volontà, è una questione di, diciamo, immaginazione. Come con gli uomini, uguale agli uomini. Uguale agli uomini, anzi io credo che l'uomo delle volte è più legato da tante, non so, da tanti pregiudizi, no? Perché... Quindi è più difficile per lui. Beh, non è una buona posizione. Vorrei sentire l'ultima telefonata, che abbiamo un'altra Carla, pronto? Pronto? Carla, pronto? Sì, Carla, hai cambiato vita anche tu, quando? Sì, io nel 2000. Che cosa facevi prima e cosa fai adesso? Dunque, ho fatto dall'operaia fino all'impiegata e ho perso il lavoro in Piemonte, in una città tessile. Non trovavo più nient'altro di lavoro. Amavo molto la musica e lavoravo con un gruppo blues allora, amatorialmente. E dunque ora una corale del comune col quale mi esprimevo cantando. E quindi che lavoro fai adesso? Ho incominciato a fare l'arte di strada con questo gruppo blues. Fai l'artista di strada? Sì, adesso faccio l'artista di strada. No, la domanda allora, scusa, perché so che si alza già da tutti, lì dall'altra parte del vetro. Ci campi? Si campa facendo l'artista di strada? Bisogna essere un pochettino bravini per sopravvivere, diciamo. Non si diventa ricchi assolutamente. Devi sempre migliorare, studiare... così, ma il tempo non manca perché si lavora più che altro il sabato e la domenica. Sei felice? Sì, sono molto felice. Beh, questo, allora chiudiamo su questa felicità, perché il tempo è finito e sono contento di aver fatto questa puntata tutta al femminile, e domani torniamo alla normalità con un altro giro di vita. Ringrazio Valerio Rocchetti e statemi bene. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.